Principe generoso, salva il figlio Ottamiri, salva il nipote a me, salva un erede all'impero dell'Asia già cadente, salva un vendicator all'Oriente. Per te, cara mia fiamma, tutto farò, tutto arderò. Poi di giro di sarà l'opera la fede, da qui nel marco. No, te ne assicuro, e per lo stral che mi piago, te il giuro.